Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il massimo della pena per Manuel Foffo, 30 anni di carcere al termine del rito abbreviato e rinvio a giudizio per Marco Prato, il prossimo 10 aprile, la prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Roma. La sentenza del giudice per l'udienza preliminare, Nicola Di Grazia, a quasi un anno dal massacro di Luca Varani in un appartamento del quartiere Collatino di Roma, non riconosce però per i due trentenni accusati di omicidio volontario la premeditazione e l'aggravante dei futili motivi. Indubbia invece per il giudice la crudeltà. Non è giustizia. Siete amareggiati? Mi sa di sì. Ma l'aggravante della premeditazione secondo lei c'era o no? C'era. Ma pure i bambini lo sanno, ma come si fa? Di solito è la televisione che si interessa dei grandi delitti, anzi è diventato un sottogenere televisivo, il sottogenere dell'inchiesta giornalistica, è diventata la dissertazione in corso d'opera di un grande delitto, al di là di quello che c'è di oggettivo, al di là delle prove, al di là delle evidenze processuali, anche al di là delle fasi processuali, la televisione analizza ed eviscera i grandi delitti. Perché? Perché indubbiamente i grandi criminali hanno un loro fascino nella cultura popolare. Noi ci siamo pasciuti di delitti, grandi delitti del passato. Jack lo squartatore, il signor Landru, ce ne sono un'infinità che una volta usciti dalla scia di sangue contemporanea, cioè una volta che noi non ne parliamo più come fatti che ci colgono nell'epoca in cui ci produciamo, sembrano appartenere quasi a un passato romanzesco. Chissà se i grandi delitti, soprattutto le grandi coppie che compiono delitti, perché è ancora più affascinante in questo caso, se mi si consenta, mi si passa il termine, per l'attenzione morbosa, popolare, il fatto siano due persone a compiere un delitto. Qual è il legame che c'è fra loro? Perché hanno deciso di delinquere? Che parte hanno avuto entrambi nel delitto? Perché una coppia si specializza nel compiere delitti? Beh, diciamo che ultimamente ne abbiamo avuto una importante rassegna, ce n'è per andare avanti nei prossimi vent'anni di televisione sicuramente. Vediamo questa mattina di capire però insieme al nostro pubblico quali sono le costanti e le circostanze oggettive, ne parlerò con un criminologo oggi, che porta le persone a mettersi in società non sempre finalizzati a uno scopo di lucro, ma molte volte anche finalizzati a fare delle sperimentazioni, provare che effetto fa, cosa succede, come nel fatto di cui avete sentito la copertina, il fatto romano che interessa due ragazzi, Marco Prato e Foffo, per il omicidio di Luca Varani. Oggi la notizia che rende ancora più succulenta, se ancora vogliamo usare il paradosso, è ancora più interessante, ancora più degna di essere approfondita, questa notizia di un bruttissimo fatto di sangue, un ragazzo ucciso, torturato, sembra per un semplice gioco, poi vedremo perché, che uno delle due persone incriminate e accusate di questo omicidio, Marco Prato, sarebbe sieropositivo, questo almeno oggi è sui giornali. Questo in sé assume un valore, perché? Perché è una persona che frequentava la movida romana, frequentava i bei nomi dello spettacolo, frequentava quelli che noi siamo abituati a vedere nei cartelloni dei film, nelle passerelle televisive, e quindi si apre un succolentissimo menù di illazioni, di possibili interviste, di chiamate in causa, di persone che siamo abituati a vedere ridere, scherzare, cazzeggiare, ingaglioffirsi davanti a una telecamera televisiva, che oggi possono essere colti. Poi l'idea che frequentasse padri di famiglia, uomini sposati, uomini fidanzati, improvvisamente trema la movida romana, improvvisamente si scoprono gli altarini, ma questo è soltanto uno strascico del vero tema che toccheremo fra un istante, che è quello dei delitti compiuti in coppia. A tra poco. Melog, cronache meridiane. I due ragazzini si sarebbero incontrati nella villetta dove è avvenuto il delitto durante la notte, e poi lì il 17enne sarebbe entrato nell'abitazione per commettere materialmente il fatto, su indicazione dell'altro ragazzino del 16enne, del figlio della coppia. In quelle ore non è chiaro se prima o dopo il delitto, ma sicuramente hanno giocato insieme ai videogiochi, quindi si sono spostati da questa abitazione alla casa del 17enne, con la scusa, a quanto pare, che l'amico, il ragazzino di 17 anni, non stava bene, era febbricitante. E poi il figlio delle vittime è tornato qui all'una, l'una e un quarto del pomeriggio, e a quel punto ha dato la... Vincenzo Mastronardi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Vincenzo Mastronardi è stato spesso nostro ospite, psichiatra, psichiatra forense, criminologo, docente alla Sapienza Università di Roma, e si è occupato di un'infinità di delitti professionalmente. Ho davanti il tomo, il suo, la Bibbia che ha scritto Mastronardi, con me un testo di consultazione universitaria, i serial killer, volto segreto agli assassini seriali, cosa sono, cosa pensano, come, perché uccidono, uccidono, la riabilitazione è possibile. Per oggi voglio chiamarla Mastronardi a ragionare su un'altra fattispecie di delitto che assume delle tinte interessantissime nell'attenzione popolare. Sono le coppie delittuose, le coppie che delinquono. Erika e Omar, c'è un'infinità, figuriamoci, adesso non mi vengono manco tutti in fila, questi ultimi posto, Foffo e Prato, l'altra coppia maledetta, ma ce ne sono un'infinità che entrano nel nostro immaginario. Partendo da quest'ultimo delitto, che parte ha avuto innanzitutto nello svolgersi delle operazioni processuali di questo delitto, e che idea si è fatta di questo tipo di coppia? Ma io sono consulente attualmente appunto per la parte civile, per la famiglia, e nello stesso tempo proprio specificamente la famiglia della vittima. La famiglia della vittima, sì, nominato dall'avvocato Cassiani, che difende quindi la madre di Luca Varani. Di Luca Varani. Il convincimento mio, dopo aver visto tutti quanti gli atti, e quello che ci si, il convincimento che si è avuto modo di farsi così proprio alla luce del sole, perché sono atti pubblici peraltro, e quindi ne posso parlare con la delicatezza del caso, naturalmente, così come è dopo che si faccia, e che era, occupandoci per intanto di Foffo, era perfettamente capace di intendere e di volere, quindi intendere il valore o il disvalore di ciò che si stava per fare, il valore o il disvalore di ciò che si sarebbe potuto commettere nel momento in cui ci si avvicinava alla droga, e quindi la intenzionalità di drogarsi, l'intenzionalità poi dopo di somministrare anche la famosa droga dello stupro, quindi il GHB, al povero Luca Varani, che rende impossibile la reazione. Per quello non solo rende impossibile la reazione, ma c'è possibilità che crei poi dopo amnesia, e peraltro va a slatentizzare istanze sessuali nella vittima, peraltro. Quindi, cioè, disinibisce, lo stesso tempo toglie la memoria. Disinibisce e toglie la memoria. Questo quindi sembra fatta apposta per stuprare una persona, l'idea è quella. Peraltro è indolore, insapore, è incolore, peraltro. Quindi a questo punto può essere confuso benissimo nella Coca-Cola, nel whisky, eccetera. Le cause, quali sono le cause comunque che possono eventualmente avvicinare una persona all'altra, e quindi rendere una coppia poi assassina, o rendere una coppia perversa? Si parlava prima di fascino, io lo definirei un fascino sinistro, appunto, proprio visto. Però la letteratura popolare di questo si è sempre pasciuta. Sì, assolutamente, voglio dire, ha attirato molto, molto di più che le favole. Le storie edificanti, questo è chiaro. Le storie edificanti attirano purtroppo, ahimè, molto di più che il romanzo rosa. In questo caso cosa c'è, secondo lei, professor Mastronardi? C'è il tentativo di compiere un gesto epico, un gesto che in qualche maniera sia come un'esperienza particolare. Cioè, in prende, quale caso? In quest'ultimo caso? Prende una persona e ucciderla con efferatezza, centinaia di martellate, coltellate, una tortura lunghissima. Voler provare di sentirsi al di sopra del bene e del male. Ogni volta che c'è un'azione situazioni di questo genere, se c'è la droga, beh, questo complica le situazioni, perché chiaramente agevola poi dopo l'interazione aggressiva. È una fattispecie presente ultimamente nei delitti di cui si parla molto. Comincia ad essere presente abbastanza spesso, se prendiamo Erika e Omar, assolutamente sì. Olindo e Rosa no, per esempio. Certo, ma i coniugi di Erba. I coniugi di Erba. Che però anche senza droga non gli ha impedito di fare un bel macello comunque. Atteso che loro continuano a professarsi ancora innocenti, però comunque questo consideriamolo. Però comunque teniamo presente che non è l'unico caso in cui appunto c'è un contagio psichico, una follia, come la definivano appunto gli antichi. La cosa che capita, che dobbiamo tenere presente, che non tutti considerano e che per la prevenzione può essere estremamente utile parlarne, è quella che è la sindrome di Stoccolma, ovvero sia a Stoccolma cosa avvenne? Avvenne una rapina in banca, una segretaria si innamora in 3 minuti proprio pazzamente del capo rapinatore, peraltro anche col volto coperto, esplode una love story, una fuga, cominciano a chiedere informazioni, quindi ma cosa sarà stata? Una basista? No, niente, una persona timorata di Dio, la cassiera, tutta casa, lavoro e chiesa, dice, ma che sindrome è? Non sapevano come definirla. Nasce così proprio. Nasce così proprio, da una rapina in banca. Cioè che la citiamo tutti, nessuno sa esattamente. Sì. Nasce così, questa è da una rapina in banca, questa rapina in banca a un certo punto dice, ma come definiamo questa sindrome? La fu definita come la sindrome di Stoccolma per la città dove avvenne. E cos'è, un fenomeno, diciamo, è un problema psichiatrico? La signora era perfettamente sana di mente, capace di intendere e di volere, solo che era sensibilissima e aveva una paura veramente particolarmente accentuata degli altri esseri umani. Quindi per la necessità di umanizzare il suo aggressore, a questo punto se ne innamora. Se come io lo per amo, salvaguardarsi di essere fatto male. Esatto, se io lo amo male, non posso subire quindi malefatto da questa persona, lo amo e quindi come quello che quando, visto che a volte non si può comprendere, ma è utilissimo capirlo perché può scattare in ogni rapporto di coppia normalissimo appunto. Beh, molte donne picchiate da uomini evitano di denunciarli, continuano a dire di amarli, questo è il vero problema. Esatto, ed ecco che sottolineo l'importanza di questa evidenziazione. L'esempio che faccio io, che è molto piaciuto, è quando noi incontriamo un cane rabbioso con i canini che ci punta contro, realizziamo in frazione di attimo che se lo aggrediamo abbiamo la peggio senz'altro, se scappiamo abbiamo la peggio comunque perché ci insegue molto più agile lui. C'è una sola cosa che possiamo fare, simpatizzare con lui, allora cercare empatia, sì, ma convincere noi stessi che veramente noi amiamo il cane. In quella frazione di attimo non possiamo barare, perché il cane con le antenne radar che c'ha riesce a percepire se noi fingiamo, se è una teatralità o meno. Quindi dobbiamo in frazione di attimo convincere veramente, no ma io li amo i cani, ma figurati, è una vita intera che vivo con i cani. Ecco, questa simpatizzazione, questa interazione simpatica col cane ottiene ecco, tutto nel il delitto miracolo. Valarani, questa sindrome che parte può aver avuto? No, qui c'è stato proprio un gioco scattato appunto poi dopo la miscela esplosiva e stata rappresentata da un piccolo ricatto e alla luce del giorno di un video, quindi effettuato dal, quindi racconto quello che è stato atti, scritto, quello che è negli atti, da un video quindi girato da Prato, quindi relativo ad una fellazio fatta da Fofo eterosessuale convinto, quindi a questo punto aveva quest'arma di ricatta, un momento di cedimento. Prato per sua stessa missione sfidava, quindi ha sempre voluto dimostrare che lui riusciva a conquistare anche gli eterosessuali, particolarmente dice, il pezzo che ho citato oggi dice interessano gli eterosessuali, come sfida verso per questo verso, Roma trema in questo momento, ecco, questa la seduttività, quindi la seduzione, quindi il seducente esistente in Prato, quindi ha favorito questa interazione di coppia, quindi il ricatto, la droga, quindi l'organizzare, il progettare, quindi un incontro finalizzato, quindi ad un incontro drogastico, beh, a questo punto. Ma secondo lei era preordinato anche poi che sarebbe finito in quella maniera, o ci si limitava a un festino con la droga? No, in corso d'opera, quindi un'escalation si è maturata poi dopo, poche ore dopo, la volontà di sopprimere qualcuno. Ecco, quindi questo è quello che è avvenuto per sommi capi, perché poi dopo ognuno è un caso a sé stante. La cosa che colpisce è che alcuni non ucciderebbero mai, ma se prendiamo per esempio Wes, un caso americano molto noto, lui aveva già ucciso diverse volte. Ci rifà il quadro, perché non ha detto intanto Rosemary dico West. Dico al nostro pubblico 800 24 00 24, prendo conto che ascoltare parlare di delitti è affascinante, però mi piacerebbe sapere i vostri punti di vista. Qual è l'atteggiamento che avete quando leggete, quando vi informate? È un'attenzione diversa rispetto alla cronaca politica, alla cronaca dell'attualità, alla cronaca che racconta episodi legati alla società, a quella del delitto. Perché vi appassionate ai delitti, ammesso che vi capiti di appassionarvi? Allora vediamo questo caso West. C'era dunque Fred West, un sadico sessuale che aveva già ucciso 3 volte prima di incontrare Rosemary, quindi compresa la sua ex moglie, quindi si sposa con Rosemary e quindi entusiasma, quindi con grosse interazioni sessuali, entusiasma Rosemary mano a mano, facendo in modo che con un'escalation crescente poi dopo la fagocita, la convince quindi a provare sempre più sensazioni forti, sensazioni mai provate prima, peraltro, e c'è sempre qui un succube e un incube. Qui l'incube la porta lentamente verso la distruzione. Lentamente, per gradi, non si giunge mai immediatamente, proprio è un lento evolvere. Beh, è il gioco del maniaco proprio, perché il gatto col topolino, pian esatto, piano. Esatto. Senta una cosa, visto che stiamo per dar la linea, ci domanda un ascoltatore, professor Mastronardi, visto che questo è il suo lavoro e di queste cose si deve occupare per mestiere, ogni tanto lei ha bisogno di disintossicarsi? Ma realmente, guardi, io mi sento tanto come, si fa per dire, un meccanico, il quale si ritrova sì sporco di olio, ma niente, è tanto attento e tanto proteso ad aggiustare il suo differenziale o il cambio di quell'autovettura che a un certo punto l'importante è che la macchina riparta riparta, le mani uno se le lava e riprende il suo lavoro. Questo è il mio atteggiamento. Grazie, ci fermiamo solo un istante, tra poco 800 24 00 24. Ma siete appassionati ai grandi delitti? Cosa ne pensate delle coppie che compiono delitti? C'è sempre un meccanismo che li lega, qualcosa di più forte della passione dell'amore, che è il desiderio di distruggere. A tra poco. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta. Hai tra i 18 e i 35 anni? Raccontaci la tua Europa e viaggia fino a Strasburgo. Con Radio 24 e l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento. Dal 4 marzo al 13 maggio ascolta giovani talenti e scopri la parola chiave settimanale con cui partecipare. Inviaci il tuo racconto sull'Europa che hai vissuto o che vivrai per studio, stage o lavoro. I migliori partiranno per Strasburgo. Sono Sergio Nava. Vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Tutte le info su radio24.it. Melog. Cronache meridiane. È il 21 febbraio 2001. Erika Denardo esce in lacrime da casa, chiede aiuto. Sua madre, Susi Cassini, 41 anni, e il fratellino 12enne Gianluca sono stati uccisi a coltellate. Tante coltellate. In casa c'è sangue dappertutto. Il corpo della donna è a terra in cucina, quello del bambino riverso in bagno. Erika viene subito raggiunta dal fidanzatino, Omar Favaro, racconta di essere sfuggita alla furia omicida di 2 albanesi entrati nella villetta. I due giovani vengono sottoposti a fermo su ordine della procura di Alessandria. È in quelle 48 ore in caserma che inizia a prendere forma la verità più cruda. Solo in una stanza, tappezzata di microspie dai carabinieri, i due fidanzatini si scambiano effusioni e, scherzando tra loro, confessano involontariamente l'omicidio. Un agguato efferato e pianificato con lucidità. Erika aveva preparato per tempo coltelli, guanti e vestiti di ricambio e atteso con pazienza, insieme ad Omar, il rientro della mamma per ucciderla. 40 coltellate per la madre e 57 per il fratellino Gianluca, diventato uno scomodo testimone. Con la donna che prima di morire implora la figlia di risparmiare il piccolo, la corsa disperata del 12enne che fugge per le scale già ferito, la colluttazione in bagno, i fidanzatini che cercano di annegarlo nella vasca e poi affondano il coltello più e più. Delitto in Novi Ligure del 2001, ricordo che parlai al tempo con un poliziotto che era entrato nel teatro del delitto. Però dopo fu scoperto, disse, in una mia carriera che ne ho viste tante, non ho mai visto una macelleria del genere. Anche qui qualcosa che colpì tanto l'immaginario popolare, se non altro per la minore età dei due autori. Erika, una figura quasi angelicata, e con una predeterminazione, con una freddezza e anche con un metodo, sistematicamente ha ucciso la madre, il fratellino, e aveva anche, diciamo, progettato di uccidere il padre. Vincenzo Mastronardi, ricordo, psichiatra forense, criminologo, docente alla Sapienza di Roma. Ci sono dei punti in comune fra questi due delitti, quello di cui abbiamo parlato, il delitto Varani e questo di Erika e Omar? Dunque, se vogliamo cogliere un punto, certo, in comune, sono passati anche 16 anni fra l'uno e l'altro, però cambia anche la società. L'immaturità di fondo comunque che dobbiamo evidenziare. In Erika anche lì c'era un dominato e un dominante, ma con un'immaturità paurosa. Comandava lei, quello era poco. Comandava lei e ciò che emerse poi dopo dalla perizia fu questo narcisismo particolarmente accentuato e questa immaturità di fondo. Noi quando evolviamo nella nostra maturità attraversiamo tre fasi: la fase precoce di maturità, lo stadio preconvenzionale, ovvero sia nei primi anni non faccio le cose cattive per la paura della punizione, da 4 anni a 10 anni. I 10 anni possono essere non cronologici ma anche emotivo affettivi, uno può avere 40 anni. Finché sei bambini. Esatto. Dopodiché passiamo alla fase appunto convenzionale, non faccio le cose cattive perché sono solo le convenzioni mi dicono che non si fanno, ma se non avessi convenzioni lo farei. Ecco. Poi c'è la fase post-convenzionale. Ma questa arriva fino all'adolescenza, fino a quando dovrebbe arrivare? Questo arriva a 16 anni, 16. Da 10 a 16 anni. Da 16 anni in poi comincia la fase quindi post-convenzionale, ovvero sia non faccio le cose cattive perché ho capito che sono proprio io. Per consapevolezza. Con il mio superego, la mia coscienza morale mi impedisce di farlo. Cioè io soltanto recentemente, io personalmente ho capito che non potrei mai uccidere perché ho messo sotto involontariamente un gatto suicida nella Napoli-Roma, andavo peraltro anche piano, al solo pensiero che avevo tolto la vita a un gruppo di cellule che faceva miau sino a poco tempo prima, insomma mi è dispiaciuto parecchio. Quindi si rimane in una fase adolescenziale quando si compiono dei delitti immotivati, addirittura in quel gratuiti. Primo stadio che dicevo, quindi la droga può far regredire, ecco, ci possono essere casi in cui pur essendo in uno stadio di avanzata così tentativo di maturità, ma può esserci una regressione. Questo spiega col contagio psichico. A posteriori tutte le persone conoscono gli autori di un delitto. La prima fase erano tanto dei bravi ragazzi, innocui, gentili, sì, perché erano ancora bambini. Per questo esatto. Sentiamo un attimo Rosanna, prima ascoltatrice, 800 24 00 24. Mi piaceva anche che partecipaste a questa discussione. Io mi appassiono a fare domande al professor Mastronardi, ma avete anche voi questa occasione. Rosanna, buongiorno. Buongiorno, sì, sto seguendo con interesse la sua trasmissione e la mia domanda era questa. Un po' tutti, gli adolescenti in maniera particolare, ma un po' tutti, guardiamo la televisione, guardiamo questi spettacoli, ma non mi riferisco tanto agli spettacoli che prolificano in questo periodo e che ripercorrono questi delitti famosi, eccetera, anche se questi mi lasciano insomma qualche titubanza, qualche dubbio. Io mi riferisco soprattutto a quelle serie e soprattutto quelle serie americane che si basano proprio su questi delitti a volte efferati con crudeltà particolari. Sono un cultore dei telefilm di zombie, quindi sfonda porte aperte. Ma non tanto questi degli zombie, io mi riferisco proprio con serial killer. Anche i zombie, guardi, ne sto guardando uno adesso ultimamente, che agente di commercio si sveglia la mattina, la moglie diventa uno zombie, quindi deve sfamarla se vuole tenersela vicino, quindi è costretto a prendere esseri umani e farli mangiare alla moglie, quindi non è che sono proprio rose e fiori, però io capisco che è fiction, anzi è talmente trash e demenziale che mi fa sorridere questa cosa. Sì, ma quanti riescono a capire e soprattutto a separare i due piani? E mi chiedo, ecco, non può accadere che invece una personalità fragile, una personalità già debole, guardando queste cose, non solo tragga ispirazione, ma che facciamo? Proprio... Solo Peppa Pig per tutti? Qual è la domanda? La domanda è pertinente, me la fanno in molti. Noi abbiamo tre teorie: la teoria catartica, ovvero se non faremo mai male a nessuno, e ci serve vedere un film aggressivo con qualcuno che ammazza qualche altro, come vedevamo i film di Bud Spencer e Terence Hill, perché così soltanto ci sfoghiamo, ma grazie al film che stesso. Questa erano gli anni in cui si scendeva in piazza e si faceva sempre a botte peraltro. E dunque, comunque, questa è la teoria catartica. Poi c'è la teoria invece quella della imitazione, e Bandura e altri autori sono i fautori, avendo visto che se entravano in classe e prendevano a pugni un fantoccio dinanzi a dei bambini, i bambini, dopo aver preso a botte il fantoccio per 20 giorni, poi il 21esimo giorno continuavano a prenderlo a botte senza che ci fosse il docente che dava loro l'esempio, quindi il fattore imitativo. Ma sembra che la terza ipotesi, ovvero sia, quindi Rosanna non sbaglia, quindi quando si chiede, ma non ci può essere un fattore imitativo? Noi abbiamo uno dei casi più emblematici, fu quando in Francia, dopo aver visto per 7 volte il film Assassini Nati, due fidanzatini uscirono e cominciarono a sparare all'impazzata soltanto per imitare il film stesso. Questo dobbiamo considerarlo. E è chiaro che però a un certo punto prevale, è qualcosa di inarrestabile, non possiamo bendare. Diciamo, la narrativa truculente è un genere. Che il romanzo d'appendice era pieno di uccisioni. Molto spesso è una catarsi. È una catarsi. Sentiamo Helen. Helen, buongiorno. Helen. Buongiorno. L'ascolto. Sono io o un'altra Helen? Non so, sotto mano c'è soltanto lei di Helen in questo momento. Avevo telefonato per dire che a 16 anni io desideravo proprio a uccidere mio padre, perché creava tanti di quei problemi, secondo me, per la famiglia. E che abbiamo sofferto tutti, secondo me lui era il problema, era il bersaglio. Ma ci ha provato soltanto, me, fuori, se qualcuno mi avesse poi dato un'arma da fuoco, credo che io l'avrei usato. Bastava un martello, si può proprio ammazzarlo, non è che c'era bisogno dell'arma da fuoco, scusi Helen. Questo è vero, però nella mia testa di 16enne, c'è un bel libro. Guardi che armi in casa mia non c'erano, però era veramente, sì, quando uno è lì che si nasconde in mezzo dei campi, Helen, perché il padre è fuori testa e poi... Insomma, si chiama la polizia, no? Cosa va? Insomma, per me c'era un padre violento, era un padre violento. Helen, i buoni lo sognano, i cattivi lo fanno. C'è un bel libro di Simenon, per cui a questo punto il desiderare di sopprimere qualcuno può anche essere una liberazione. Io ho allucinato omicidi di un'infinità di persone nella mia vita. È chiaro, non riuscivo a dormire, cioè adesso se lo incontro per strada. Mentre stiamo parlando in mezzo al traffico, sa quante persone dopo le famose corna che qualcun altro fa esplode con un l'ammazzerei, non lo facciamo naturalmente, quindi, ma comunque Mastronati, diciamocelo chiaro, fa parte della natura umana allucinare una possibile vendetta truce verso una persona, fa parte altresì della civilizzazione umana. Sì, tranquillizziamo coloro che in questo momento stanno pensando ad uccidere qualcuno. Io non nego di averlo pensato, persone mi hanno fatto molto male, ho passato notte intera pensando se lo incontro per strada gli faccio questo. I buoni lo sognano, lo pensano, i cattivi lo fanno. Fermiamoci un istante, tra poco 800 24 00 24, dal racconto del delitto siamo passati all'autoconfessione del delitto allucinato. Un bel passaggio, a tra poco. Faircam Air and Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com vi presenta Melog, cronache meridiane. A voi chi ha dato l'autorizzazione di stare qui? Siamo della troupe di chi l'ha acceso. Sono il commissario Fiutozzi. A che punto sono le indagini, eh? Ma non lo so, ancora presto per dirlo. Noi dobbiamo fare ancora la diretta, costruire il plastico. Cosa avete trovato? Le nostre salite! Le nostre discese! Guardate qui, una settimana da citrullo, hanno appena ammazzato una contessa. Il è troppo bello! Cosa prova in questo momento? Ecco, questo è Omicidio all'italiana, il secondo film di Maccio Capatonda da oggi nelle sale italiane, e vi confesso, lo andrò a vedere oggi pomeriggio, non è uno spot, è perché volevo parlare di questo film, poi oggi mi ha anticipato la cronaca, ma non è detto non ne parli domani. Allora, Maccio Capatonda immagina un immaginario paese di cui è sindaco, a Citrullo, in cui si svolge il tipico, potrebbe essere a Vetrana, ecco, in cui c'è di tutto, c'è la presa in giro, l'ironia sui personaggi chiave della rappresentazione televisiva del delitto. È andata bene anche al professor Mastronardi, perché c'è una certa criminologa che fa Sabrina Ferilli, che è la professoressa Spruzzone, che è chiaro che è un'allusione a quasi omonima. Allora, Mastronardi, prima di andare avanti con i delitti, ci sono altre persone. Le posso porre un caso personale? Perché ho un caso clinico. C'è un ascoltatore che ormai da mesi chiama tutti i giorni. Che diciamo scrive sms, anche oggi lo scrive, il tema, leggo l'sms di oggi e lei può capire qual è i precedenti. Tutti i giorni trova l'argomento della trasmissione favorevole ad accusarmi di omosessualità, come se fosse un delitto. Cioè, confessalo, dillo, è il momento che lo dici, c'è il culo chiacchierato, ogni argomento. Anche oggi dice: come mai non c'è il reato di ricchionicidio? Questa discriminazione, Nicoletti, tu potresti essere un potenziale vittima. Qual è il problema di questo signore, secondo lei? Ma deve assolutamente tutti i giorni a me fa ridere, sì, no, dillo, dai, confessalo, dillo. Beh, io la vedo positiva, cioè sarei felice di farlo contento. È mitizzato, è innamorato Gianluca, di me. È un mito, ecco. Gianluca è diventato un mito per questa persona, non sappiamo di che genere naturalmente, però questa simpatizzazione, questo è suo, una costante, questa costante niente, lo alimenta, per cui a questo punto, perché non mi colloca desidera, in un ipotetico Olimpo, sempre questa cosa qua, desidera, no, è più forte di lui, quindi a questo punto non credo che se ne libererà mai, nemmeno andando in terapia, neanche andando in terapia. Va bene, mi fa piacere, mi dà degli argomenti molte volte di riflessione. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io volevo fare un'osservazione che si pone un po' in linea con quello che ha detto la prima ascoltatrice, che parlava del rischio di emulazione. Io volevo chiedere invece al professore, perché la mia preoccupazione come padre di due figli ancora abbastanza piccoli, quando tengo la televisione accesa, è proprio quella di, come dire, di non fargli passare il messaggio che, come si vede un cartone animato, si può vedere la cronaca sul telegiornale di un omicidio, perché più o meno viene rappresentato quasi nello stesso modo nella mente di un bambino. Allora, la mia domanda è: c'è il rischio che l'appiattimento che porta la televisione possa indurre a considerare che, visto che si fa spettacolo su tutto e lo si fa anche sugli omicidi, troviamo i plastici? Rispondo subito. Certo. Alessandro ha detto, mi scusi, Alessandro. Sì, Alessandro. Ha paura che per i suoi figli diventi normale il delitto perché lo vedono in televisione. Sì, dunque dobbiamo dire questo, che c'è poi un certo appiattimento degli impulsi, per cui a questo punto tutto dipende da da quello che poi dopo lei correla. Il padre, la madre, la famiglia è importante nel dare una chiave di lettura poi dopo oggettiva ai figlioli stessi. Possiamo noi riuscire a trasformare un qualcosa che è nero in grigio e poi dopo in bianco, riuscendo tranquillamente con l'eloquio, con la parola. Non dimentichiamo quella bellissima frase di Gorgia: la parola è un potente sovrano che con un corpo piccolissimo e del tutto invisibile conduce a compimento opere profondamente divine. Infatti essa ha la capacità di cancellare la paura, di infondere gioia, di intensificare la compassione. Questo Gorgia in Commedia di Elena. Alessandro, lei può far molto per i suoi figlioli, indipendentemente da quello che questa sera vedranno. Possano essere loro, voglio dire, immagini aggressive, immagini cruente, però a questo punto, se il padre riesce a minimizzare ogni cosa che si vede, a questo punto sarà il padre stesso che continuerà, poi correrà, voglio dire, sottolineerà ai figlioli stessi quanto a un certo punto mi sta facendo, sentire in colpa il suo Mastronardi, che io regalavo ai miei figli i cervelli confezionati come i polli al supermercato dal negozio d'argento, regalavo gli strumenti dei peggiori delitti del mondo perché si divertivano tanto, è catartico, sono venuti assassinati, sono ragazzi tranquillissimi. Stefano, velocemente Stefano, vediamo se facciamo in tempo. Sì, sono qua. Io penso che il fatto di trasmettere in continuazione ai telegiornali tutte queste notizie di omicidi che succedono siano rientrati un po' nella normalità di tutti i giorni. Una volta ci si scandalizzava quando si sentiva di un omicidio di qualcuno, oggigiorno non si fa più caso perché succedono talmente tanti e è diventata quasi una normalità. Non vorrei che fosse anche questo uno dei problemi. Io sono dell'idea che le cose vadano raccontate quando accadono. Esiste anche metodo, anche oggi abbiamo parlato di delitti terribili, però non l'abbiamo fatto con l'intento di solleticare la morbosità di chi ci ascolta. Il lavoro del cronista è quello di raccontare, parlare di questi delitti è anche uno spaccato alla società. Vede come sono mutati da Erika e Omar al delitto Varani di Roma, cambiano le società, cambiano l'infantilismo dei nostri figli, cambiano anche le maniere. Sono tanti indicatori della società che servono a maturarsi un'idea della contemporaneità. Peraltro aggiungiamo questo anche, che lei pensi che ci sono nelle modalità di maltrattamento ai minori, addirittura come dice un certo Solomon, le favole narrate, anche la favola di Cappuccetto Rosso può essere orrenda, il lupo che viene cattivo, che ti mangia, eccetera. No, la cosa terribile è il cacciatore che apre il lupo, esce la nonna viva, dopo è stata nei succhi gastrici del lupo per mezza giornata. Ecco, quindi possiamo andare a trasformare ciò che è senz'altro sereno e tranquillo in qualcosa di terribile. Pensa Pollicino, che è crudele, che fa sgozzare i figli dell'orco al posto dei suoi fratellini. Poi non sarebbe all'orco, sarebbe anch'io. Che discorso. Hansel e Gretel, le streghe, cose terrificanti. Anche dietro le favole ci sono delle cose terribili. Dipende tutto da noi. Ma servivano per far capire ai bambini che anche quello esiste. Il male e il bene. Allora, grazie Mastronardi. Siamo partiti a parlare delle coppie assassine. Abbiamo dato edificanti indicazioni alle famiglie preoccupate. Quindi ha avuto una funzione catartica questa trasmissione. Alla prossima. Grazie.